Ah sì, pronto, sì sì, noi l'abbiamo detto stamattina, ma siccome l'appuntamento era alle 10, poi dopo un po' non l'abbiamo detto più, diciamo. Perché... Sì sì, perché abbiamo iniziato alle 11, finché siamo arrivate, sì sì, perfetto. Allora dai, puoi parlare? Ah, adesso, ciao. A tutte. Scusa perché non sento niente. Vai. Siamo qui quasi un centinaio di persone, siamo arrivate da poco, verso le 11:15. Praticamente appena iniziato il presidio abbiamo fatto dei cori, siamo riuscite a spostarci nel marciapiede più sotto le mura di Ponte Galeria. La risposta da dentro è stata da subito fortissima, hanno iniziato a urlare, comunque a fare cori anche da dentro e battiture, sono riuscite a dirci che la polizia le ha subito chiuse dentro le celle, non abbiamo capito in realtà se già da stamattina presto oppure da quando hanno iniziato a urlare e a rispondere ai solidali presenti. Per ora tutto tranquillo, il presidio è abbastanza numeroso, siamo molto soddisfatte soprattutto perché ci sentono da dentro e stanno rispondendo cioè in un modo molto sentito, ecco, molto forte, gridano libertà, appunto per protestare contro il fatto che gli sbirri li hanno chiuse dentro, ci stanno telefonando per raccontarci quello che succede dentro, quindi se vi va raggiungeteci. Intanto continuano ad arrivare anche un po' di persone in ritardo, quindi siamo qua, penso che staremo almeno un'altra oretta. Benissimo, allora a parte che io, come ricordavo stamattina, questo dei presidi è una, diciamo, sono iniziative che si ripetono da molti anni, per oggi mese, proprio sì. Perché oggi sono recluse e sono donne, quindi oggi assume anche un significato, un altro significato più, certo, perché più largo, ovviamente certo. Anche la reclusione delle donne migranti è violenza sui corpi delle donne, e quindi volevamo essere qui anche oggi a ricordare che comunque il regime delle frontiere e le politiche contro gli immigrati e le immigrate devastano comunque le vite delle persone. Noi siamo qui come ogni mese a gridare che ci fanno schifo le gabbie, i CPR, a gridare comunque la nostra solidarietà verso tutte le persone ristrette, soprattutto le persone migranti e le donne presenti adesso a Ponte Galeria. D'accordo, grazie tante, allora ciao. Allora vi ricordiamo anche in chiusura appunto che c'è la nuova scarceranda, la scarceranda 2018, potete acquistarla qui in radio oppure nelle iniziative, nelle presentazioni che faremo insomma per diverso tempo, anche dopo l'inizio dell'anno nuovo, e ricordarvi ancora che ogni copia ci permette di mandarne un'altra gratuitamente, ogni copia che vendiamo ci permette di mandarla gratuitamente a una persona detenuta che ce ne fa richiesta o che voi stesse ci potrete segnalare. Quindi vi ricordo anche che Radio Onda Rossa da 40 anni nell'etere, e non solo, con l'avvento di internet anche in tutto il mondo raggiungibile, ha però bisogno sempre del sostegno economico, non solo di chi trasmette ma soprattutto di chi la ascolta, e quindi vi chiediamo ancora di continuare a contribuire alla vita di Radio Onda Rossa. 6180 4001 il nostro numero di conto corrente postale, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Altre modalità le trovate andando sul sito e cliccando su sostieni, ma magari insomma se preferite il conto corrente vi consorziate, come ci ha suggerito tempo fa un ascoltatore, e quindi fate un unico bollettino, così insomma la tassa prevista è di minore impatto. Un saluto a chi ci ha ascoltato, un abbraccio particolare a chi lo fa privato e privata della propria libertà.